Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Società, economia, politica, famiglia. Tutti argomenti che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, all'interno di questa rubrica che ha per titolo Il bene di tutti, parliamone. Siamo partiti dalle vicende dei nostri tempi, dalla strettissima attualità. La democrazia interna e la rappresentatività dei partiti, la precarietà nei giovani, la pace e il ruolo della cooperazione internazionale decentrata, la situazione del sindacato, gli imprenditori suicidi, l'etica dei manager, l'etica della finanza. Ma tutti questi argomenti noi li abbiamo affrontati con il nostro stile. Abbiamo voluto cioè guardare la politica, l'economia e la società con la prospettiva che la dottrina sociale della Chiesa ci offre. Il Vangelo, insomma, applicato all'agorà, applicato alla piazza pubblica. Nelle primissime puntate di gennaio vi abbiamo spiegato cos'è questa dottrina sociale della Chiesa. Vi abbiamo raccontato di Leone XIII e dell'enciclica Rerum Novarum, nella quale, pur condannando aspramente il marxismo, Papa Pecci scese in campo per difendere a spada tratta i diritti dei lavoratori. E vi abbiamo raccontato di come i pontefici del secolo scorso siano intervenuti a più riprese, con il loro contributo, descrivendo e dando indicazioni di giustizia sulle questioni di volta in volta attuali. Ma per quanto i tempi possano mutare, la dottrina sociale della Chiesa fa sempre sentire il suo messaggio. Mutano i fatti contingenti. Rimane intatto il suo nucleo centrale. C'è dunque un fil rouge, un filo rosso che collega la mercede agli operai di Leone XIII all'etica della finanza di Benedetto XVI. Qual è? Vogliamo riprendere in sintesi che cosa la dottrina sociale della Chiesa ci può offrire. Vogliamo chiederci a chi può servire leggere i fatti e le vicende della storia sotto la luce di questo insegnamento, per quali obiettivi, per quali scopi? Avremo con noi Don Marco Cagol, responsabile della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, che sarà in collegamento telefonico. Ma intanto leggiamo come esordisce Benedetto XVI nella sua Caritas in Veritate, l'ultima enciclica sociale finora scritta. Dalla Caritas in Veritate di Papa Benedetto XVI. La carità nella verità, di cui Gesù Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena e soprattutto con la sua morte e risurrezione, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. L'amore, caritas, è una forza straordinaria che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace. È una forza che ha la sua origine in Dio, amore eterno e verità assoluta. Ciascuno trova il suo bene aderendo al progetto che Dio ha su di lui per realizzarlo in pienezza. In tale progetto, infatti, egli trova la sua verità ed è aderendo a tale verità che egli diventa libero. Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. Questa infatti si compiace della verità. Tutti gli uomini avvertono l'interiore impulso ad amare in modo autentico. Amore e verità non li abbandonano mai completamente, perché sono la vocazione posta da Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo. La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni responsabilità e impegno delineati da tale dottrina sono attinti alla carità, che secondo l'insegnamento di Gesù è la sintesi di tutta la legge. Essa dà vera sostanza alla relazione personale con Dio e con il prossimo. È il principio non solo delle micro-relazioni, rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Per la Chiesa, ammaestrata dal Vangelo, la carità è tutto, perché, come insegna San Giovanni e come ho ricordato nella mia prima lettera enciclica, Dio è carità. Dalla carità di Dio tutto proviene, per essa tutto prende forma, ad essa tutto tende. La carità è il dono più grande che Dio abbia dato agli uomini. È la sua promessa e nostra speranza. Bentornati, siamo in collegamento telefonico con Don Marco Cagol, responsabile della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Padova. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e buona giornata. Che senso ha leggere i fatti sociali alla luce della dottrina sociale? A chi può essere utile e a quale scopo? Sì, diciamo che è una domanda interessante questa, perché a volte sulla dottrina sociale della Chiesa possono esserci anche stati e possono esserci nelle persone, anche nella cultura in generale, degli equivoci. Il primo equivoco più importante è quello di trovare nella dottrina sociale della Chiesa delle ricette, no? Delle ricette preconfezionate, delle soluzioni pronte, dei modelli, diciamo così, che possono essere applicati e subito realizzati per essere coerenti, insomma, con una serie di valori e di principi. Invece, ecco, la dottrina sociale offre proprio, come anche nella domanda mi è stato detto, dei criteri, una luce, ecco, dei criteri di interpretazione. E in particolare la dottrina sociale della Chiesa ci aiuta a guardare due aspetti dei fatti sociali. Innanzitutto individuare, diciamo così, quali sono le caratteristiche della persona umana che entrano in gioco nei vari meccanismi. La dottrina sociale della Chiesa in fondo ci offre una visione di uomo, di persona, e in qualche modo rilegge molti meccanismi anche della vita sociale, riconducendoli proprio a quelli che sono le caratteristiche fondamentali dell'uomo e della persona, e quindi anche mettendo in luce quei meccanismi che valorizzano le caratteristiche fondamentali della persona umana e quelli invece che magari le annichiliscono, le umiliano, insomma, queste caratteristiche, e in sintesi, insomma, proprio la persona. L'altro aspetto importante è che la dottrina sociale della Chiesa offre dei criteri per quanto riguarda l'aspetto morale, l'aspetto etico. I fatti sociali non sono dei meccanismi determinati da leggi astratte o da leggi meccaniche, si compongono continuamente di scelte che le persone singole o in modo organizzato e strutturato compiono usando il margine di libertà che ogni persona ha quando sceglie, no? E proprio quando c'è questa libertà di scelta, ecco che entra in gioco quella che noi chiamiamo l'etica, cioè quali sono i fini, i valori, i beni che ogni singola azione, diciamo così, persegue. Ecco, i fatti sociali sono, di fatto, poi spesso sono strutturati da una serie di azioni una dietro l'altra. La dottrina sociale della Chiesa aiuta un po' a, come dire, a isolare anche le varie scelte, per capire queste scelte a che beni sono rivolti e come poi possono anche portare delle conseguenze o negative o positive a seconda del bene che si è scelto. Ecco, quindi il senso è proprio quello di capire l'impatto della realtà sociale sulla persona umana e anche come la libertà umana agisce dentro nei fatti sociali. E questo può essere utile a tutti. Sicuramente ha una specificità per i credenti, perché i credenti accolgono anche proprio tutta la prospettiva teologica della dottrina sociale, però anche ai non credenti, perché di fatto possono anche loro svolgere anche questa analisi dal punto di vista morale e dal punto di vista così antropologico, umano. I famosi uomini di buona volontà ai quali certamente si rivolgono i papi nelle encicliche. Poi più uno ha responsabilità sociali, più può trovare anche beneficio da certe analisi, da certi criteri, è chiaro. Però comunque questo riguarda tutti, perché ognuno di noi è attore nella società. Grazie infinite, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento con Don Marco Cago, il responsabile della pastorale del sociale e del lavoro della diocesi di Padova, e stiamo rivedendo al termine di questa nostra carrellata durata 6 mesi perché partire dalla dottrina sociale della Chiesa, cos'è la dottrina sociale della Chiesa e a chi si rivolge questo insegnamento del Magistero. Come nasce, Don Marco, questa dottrina sociale? Sappiamo che è formata da encicliche e da documenti, ma questi nascono a tavolino nelle scrivanie dei papi o sono frutto anche di altri processi? Assolutamente, diciamo che non nascono a tavolino. La dottrina sociale, cioè i documenti che noi abbiamo della dottrina sociale, sono delle sintesi che il Magistero, appunto pontificio o comunque della Chiesa, fa, ma è una sintesi che attinge a piene mani nella storia e in particolare nella storia di uomini e donne credenti che hanno tentato di applicare, di realizzare i principi evangelici dentro nella realtà della società. Quindi quando un Papa decide di stendere un'enciclica, si avvale anche di tutta una serie di persone, di laici, di vescovi, di sacerdoti, di religiosi che di fatto hanno le mani in pasta, hanno il sapere, ecco. Ma comunque anche questi esperti che coadiuvano il Papa di fatto fanno sempre riferimento, sono un po' coloro che fanno una sintesi, che sintetizzano quello che è un vissuto, che è una storia. Quindi ecco, la dottrina sociale della Chiesa ha questo carattere dottrinale, ma nel senso che rende, diciamo così, patrimonio comune di tutta la Chiesa qualcosa che però viene dalla storia, viene dalla vita. Tra un'enciclica e l'altra sono tantissime le situazioni, le realizzazioni, i tentativi di mettere in pratica, le innovazioni anche sociali, che poi nella successiva enciclica normalmente vengono poi sistematizzati e indicati anche come, tra virgolette, vincolanti per quella che è la coscienza anche dei cattolici. Però ecco, in questo senso non nasce a tavolino, in questo senso è anche qualcosa che ha una sua ricchezza molto più grande che un discorso fatto a tavolino. Prima Don Marco parlava dei cambiamenti che possono succedere nella società da un'enciclica all'altra, chiaramente. Prima abbiamo parlato anche di un filo rosso che collega comunque la mercé agli operai della Rerum Novarum di Leone XIII all'etica nella finanza della Caritas in Veritate, un filo rosso che collegherà anche i futuri pronunciamenti del Magistero in tema di dottrina sociale. Questo filo rosso, riusciamo a dargli un nome? Qual è il nucleo fondamentale della dottrina sociale? Ma c'è un'espressione molto chiara di Benedetto XVI nell'ultima enciclica, la Caritas in Veritate appunto, che dice così: la carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Quindi sicuramente il filo rosso, ciò che lega anche tutto, che dà come una chiave di lettura, ma poi semmai vediamo meglio anche perché, è proprio la carità, cioè l'amore, che significa l'impegno costante, fedele, diciamo così, fattivo per il bene degli altri. Detto in altro modo, il filo conduttore è, diciamo così, la scelta anche etica di considerare in ogni realtà, in ogni fatto sociale, l'altro mai come un mezzo, ma sempre come un fine, il suo bene, il suo sviluppo, ecco, questo in termini singolari, ma anche in termini comunitari. Quindi direi che la carità, proprio come questo desiderio, ecco, del bene di tutti, ecco, è il filo rosso. Poi chiaramente questa carità si articola in una serie di principi che sono una sorta di modo per rendere operativo questo principio, questa esperienza generale che è quella della carità, e soprattutto in riferimento proprio alle realtà sociali. Ecco che allora si struttura questo principio, questo elemento della carità, in una serie anche più articolata e più specifica di principi. Però direi che questo è il filo rosso, che d'altra parte ha origine nella grande comandamento dell'amore, o in quello che noi potremmo chiamare, diciamo così, proprio la tavola del giudizio universale, dove sono elencate in maniera molto semplice le azioni che ogni uomo è chiamato a fare nei confronti dell'altro uomo. È chiaro che poi diventando complessa la società, quel tipo di azioni indicate nel brano di Matteo 25 assumono anche poi delle caratteristiche strutturate, la società nel suo complesso che deve darsi delle strutture perché quelle azioni siano rese possibili, siano accessibili, siano svolte da tutti. Però diciamo che la fonte e il filo rosso sta lì, nel comandamento della carità. La carità quindi come fondamento del bene comune, del bene di tutti. Esatto. Proprio la carità che è protagonista dell'ultima enciclica, la Caritas in Veritate. Certamente. Perché quest'ultima enciclica è così importante per gli anni che stiamo attraversando, quasi profetica? Perché di fatto in maniera molto esplicita afferma proprio questo, che la carità è il principio di tutto, le relazioni, non solo quelle amicali, familiari, l'abbiamo sentito nel brano, no? Ma anche quelle sociali, economiche e politiche. Questo dal punto di vista, un certo punto di vista, è anche una cosa un po' rivoluzionaria, perché dire che la carità deve essere un principio, una forza che lavora anche per esempio nell'economia, oggi non è che sia una cosa molto compresa, molto capita, anzi istintivamente ci viene un po' da dire che non è, che non può essere così. E la cosa importante è che questa enciclica fa vedere sostanzialmente una cosa, cioè com'è che arriva a dire questo? Cioè l'enciclica parte da questa affermazione: la carità è una forza che l'uomo ha dentro. Dice, ogni uomo avverte la spinta ad amare gli altri uomini, ad amare in modo autentico gli altri uomini, cioè l'amore, la carità è una forza originaria dell'uomo. Per poi il credente, noi diciamo, viene da Dio. Ed è una forza che sta dentro, e noi facciamo l'esperienza che stiamo bene quando amiamo e siamo amati, che questo ci realizza. Allora, il ragionamento dell'enciclica è molto semplice, ma se questo è vero, perché la società, l'economia e la politica debbono essere costruzioni che a priori escludono per principio questa forza che è la più dirompente, anche la più efficace, la più positiva che l'uomo ha dentro? Perché l'uomo deve rassegnarsi a costruire degli ambiti, in fondo sia la politica che la società che l'economia sono anche degli ambiti che siano costruiti dall'uomo, non è che sono dati così come sono, no? Ma perché noi dobbiamo, diciamo così, costruire dei sistemi dove l'uomo non può esprimere questa forza grande che ha dentro, che lo alienano quindi? Quindi lo sforzo, la sfida è quella di costruire dei meccanismi dove non si è espulsa a priori questa forza, che è una forza grande e che non è solo sentimento, perché la Caritas in Veritate dice chiaramente che la carità, l'amore è una forza che spinge le persone ad impegnarsi con coraggio per la giustizia e per la pace, quindi è insita nella idea di carità evangelica anche il discorso della giustizia e della pace. Però questa è una forza che alberga nell'uomo, allora è la forza migliore che ha l'uomo, la più radicale, la più originaria, e qui c'è anche proprio un ottimismo sulla persona, l'uomo è buono nella sua radice, non è cattivo, perché questa forza non può, diciamo così, avere cittadinanza nell'ambito della società, dell'economia, della politica? Molto brevemente, in questi 6 mesi di carrellata di questi temi alla luce della dottrina sociale della Chiesa, e ci siamo accorti di quanto questa sia un patrimonio per la Chiesa, di quanto la carità che la permea possa far del bene al mondo e non solo alla Chiesa. Come può fare la Chiesa, che in qualche modo ne è custode di questo tesoro, metterlo a risalto, farlo emergere, diffonderlo tra le genti? Bisognerebbe anzitutto avere sempre, cioè ci sono tanti mezzi, l'importante sarebbe farla conoscere, leggerla, gustarla, meditarla. Importante sarebbe che quando noi anche facciamo azioni più specifiche, no, della nostra fede, tipo la preghiera, tipo la catechesi, noi considerassimo che lì entra la vita del mondo, la vita sociale, la vita politica, e che non è altro rispetto alla fede, non è altro rispetto. Ecco, qui è chiaro che hanno un compito i catechisti, hanno un compito gli educatori dei gruppi, hanno un compito i sacerdoti nell'omelia, ha un compito anche la diocesi che deve proporre comunque sempre incontri di approfondimento, eccetera, e poi ha un compito ogni singolo credente che forse deve avere anche il coraggio di accostarsi sia ai testi ma anche agli strumenti che possono aiutare per comprendere sempre meglio questa dimensione. Insomma, non si può essere cristiani se non ci si appassiona dei fatti del mondo. Ma ecco, sì, direi di sì. Io penso che sul comodino almeno di un cristiano impegnato non possa non esserci almeno qualche volta qualche testo della dottrina sociale, proprio come testo di meditazione, di riflessione, anche come acquisizione di una serie di criteri, di chiavi di lettura per guardare la realtà del mondo. Ecco. Grazie Don Marco per il tempo che ci ha concesso. Prego, e grazie per le a voi. Vostre parole. Grazie. Grazie. Arrivederci, grazie. Ringraziamo l'Associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo alla realizzazione di questa trasmissione. Potete riascoltare le 24 puntate del nostro programma sul podcast sul nostro sito. Per dirci qualcosa mandateci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, vi auguriamo un'estate serena. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.